Eccoci, eccoci qua, bentornate e bentrovate a tutte. Siete all'ascolto della maratona di 24 ore del martedì autogestiva femministe e lesbiche. Bentrovate all'ascolto. Vogliamo cominciare? Come si intitola questa trasmissione? Allora, qui c'è scritto un alfabeto tutto per noi. Possiamo ribattezzare alfabeta, volendo. E comunque, dalla A alla Z, tutte le donne femministe, lesbiche e non anche femministe, perché come vi renderete conto la nostra scaletta è un po' così random, che ci hanno ispirate, che ci sono piaciute per qualche motivo, che ci hanno stuzzicate, che ci hanno fatto ridere, che ci hanno fatto piangere, così. Ci teniamo a precisare che chiaramente questa alfabeta è molto a molto emozionale, molto a sensazione, molto imprecisa di per sé, perché non sarebbe mai potuta essere esaustiva di tutte le donne che nel campo dell'arte, della musica, della politica, della poesia ci hanno ispirato nel corso di questi anni, a noi tutte, piuttosto che a collettività intere. Quindi prendetela un po' così, anzi lanciamo il fatto che abbiamo lasciato la X scoperta. Il nostro numero di telefono è sempre quello 06491750, se ci volete appunto dire anche una sola delle donne che vi ha ispirato ultimamente negli anni, che vi ha cambiato la vita, il modo di vedere le cose, che vi ha fatto ridere, vi ha fatto piangere e quant'altro. Noi siamo qua, 06491750. La X è l'incognita, però non deve avere per forza un iniziale del nome e del cognome con la X. No, certo, potete scegliere una delle lettere a caso, cosa che abbiamo fatto anche noi. In realtà non le abbiamo forse riempite tutte, alcune le abbiamo anche riempite troppe, quindi via, dai, partiamo. Cominciamo? Che se no non riusciamo. Sì, certo. Cominciamo con la A per antonomasia. Sì, cominciamo da là. Cominciamo con Anna Magnani. E vai. E che vogliamo dire di Anna? Facciamo parlare lei. Abbiamo selezionato un audio per voi, è tratto da un film che si chiama La città all'inferno, e sono Anna Magnani e Giulietta Masina, sono in carcere e hanno voglia di un caffè, ma non hanno il fornello. È venuta una voglia di caffè a me. Tu che hai il giornale? Nasmani ardente te vasà. Dove? Là da qui, là. Ce n'ha sempre tanti, è chilli, no? Narararara, carirararara. Na femme, ma quanti ne pipi ne uno? Che te sei messa addosso? Me lo hanno dato qui. Questa mi pare un antico romano. Ma te dà fastidio, eh? Io non me lo mettevo mai, manco d'inverno. Me l'ha dato la Monica. Non avevo nient'altro quando sono entrata. Solo i vestiti di dosso. Maruzzella, Maruzzella. Quanti anni c'hai? 27. Ti miseri dall'occhio mare. Per questo ti ha fatto tanto effetto quel... come si chiamava? Adone. Adone. Non mi mise un piatto a menù di spiacere. Io all'età tua sai come zompavo. Sto cuore mi fai sbattere. Più forte quando il cielo è un mare scuro. Ti aspetti a fumare e fuma, no? Senti ragazzi, non mi guardare così, perché fra noi due il fenomeno sei te, mai da credere sulla parola. Prima mi dice sì, poi dolce dolce mi fai morire. Maruzzella, ma... Non buttarci il rino, non buttarci il rino. Non te ne voglio mai. È venuta... Accendi quel pezzo di carta lì. Pia tre bicchieri dal tavolino. Metti intorno al fuoco così. Aninamo, ma tu guarda che stava a combinare d'estate con sto cavo. Pia un po' d'acqua. Pia l'acqua, no? A me non mi fregano più a venire qui d'estate. Appunto, sono in carcere, a me non mi ci fregano più a venire qui d'estate. Stupendo. Mi rendo conto che va visto. Comunque, vabbè, si trova in rete. È bellissima, sono bellissime. Sei pronta con il prossimo audio? Vogliamo dire qualcosa su questa nostra Beniamina, sempre con la lettera A? La prossima? Noi in radio ne parliamo spesso di lei. Lei è una nostra, alla fine, carissima sostenitrice. Quando ci sono le iniziative dell'MFLA viene sempre. E alla A mandiamo una giovane, facciamo questo sbalzo di età tremendo, mandiamo una canzone di Giulia Nania, tra l'altro facendo un crash storico, perché la mandiamo con una cover di È scesa ormai la sera di Gabriella Ferri, così proprio facciamo una citazione nella citazione della citazione e ce l'ascoltiamo adesso. È scesa ormai la sera, l'ultima nostra sera, sul nostro viso senza parole muore l'amore e niente c'è da dire più di questo. Silenzio! È finito ora il racconto di noi due. Ormai la sera, l'ultima nostra sera, sul nostro viso senza parole muore l'amore e niente c'è da dire più di questo silenzio. Insomma, così abbiamo fatto un doppio giro nell'alfabeto. Abbiamo messo questa giovane cantautrice romana, Giulia Nania, che siamo là ancora, non so, pensavo domani. È già l'una e mezza. Già l'una e mezza, ma siamo ancora là. Però... E l'abbiamo messa, che cantava, faceva questa cover, secondo me molto riuscita, di questa canzone di Gabriella Ferri. È scesa ormai la sera e quindi... Che dire? Andiamo avanti. Andiamo avanti. A che lettera siamo? Alla B? Siamo sempre là, perché poi sì, c'erano in mente Alda Merini, Annie Lennox. Saltiamo completamente di palo in frasca. Poi però facciamo nomi e cognomi. Noi abbiamo fatto un gioco, un mischione. Alcune con la B, cioè alcune col cognome, alcune con il nome. Per esempio, Concetta potrebbe essere la C, ma invece è la B, perché si chiama Barra. è un gioco, è un giochino, sì, è divertente, tra esatto. l'altro, molto divertente. E tra l'altro so che qualcuno questo... ci ha già chiamato, ce l'hanno detto e... sì, però Goliarda Sapienza già era prevista, Goliarda ragazzi. C'è, voi e siete, quindi... siamo prevedibili evidentemente, oppure non so, sono persone che hanno segnato un po' tutti i nostri, le nostre letture. Via. A proposito di Concetta Barra, che diciamo? Vabbè, questo è un pezzettino, lei è una grandissima attrice, cantante, è procidana, è napoletana, è la mamma di Peppe Barra, nuova compagna di canto popolare, potrei dire 3000 cose, però non le dico perché siamo di corsa. Vi faccio sentire un pezzettino, vi facciamo sentire un pezzettino che si chiama Il soliloquio dei Minoucchi. E che non significa niente, Minoucchi, come tutto quello che dirà, ve ne renderete conto. Forza, che pazienza, sono venuto qui, signorina, signorina, a me, forse mi avrà visto per dire, ho buttato un cane a pisciare, un cane tutto purichiuso, merduso e fatuso. E poi mi avessi a sentire e dice, signorina, chiamate poco, signorina, chiamate poco. Ecco poco, ecco poco. Ecco poco, tu sei da io, e là tu sei la faccia lì. Pochi baci, pochi baci, pochi baci. Ecco poco, ecco poco, ecco poco. Signorina, mai per comando, me lo fate un favore? Mi andate a comprare 100 grammi di minuocchi? Io sono educata e felicevole. Andò dal saloniere. Per favore mi date 100 grammi di minuocchi? Chi lo muova? Oh, e mi spara una rasata in faccia. Signorina, sapete cosa sono i minuocchi? No, mai saputo. I cazzo con l'occhio. A me, proprio a me. E altre parole equivoche, a potante, e per coco covic, quando cammina la palla nel zizz. E zizz, boh, a due pere, zizz, a due pere, è chiuso, è chiuso, è chiuso, boh, chiuso. A tu sei dai, a tu sei dai, a tu sei poche baci, a tu sei dai, a tu sei, a tu sei dai. Signori, sempre signorina, sempre signorina. Dove sta la cappella di Santa Perita Maggiore? Io per un momento mi fermo. Noi che l'aveva risposto a chi? Che l'aveva risposto a chi? Sta rindato un greco la stessa mamma. A chi c'è da io? Quando ce l'ho, a tu. Che poco, quando se facevo, che li quattro figli di cioccola, ma che li cioccolo vecchie, quelli che ancora hanno urgato, con le cose con i nudi, quelle segne della vecchiaia. Ecco ma fa, ecco ma fa. Mi sciuffo no, mi sciuffo no. Che poco, ecco, ma non è detto l'ultima parola, Occhio per occhio, senza perpenza. Oh, oh, ecco abita a dormire, ma belli, altro no, si schiaffa il cervello. E non è nonna, e non è nonnarello, o lupa sa, mangia da pecorello. E pecorella, amico, ma fa visto. Mamma! Ma! Eccoci. Ti schiatto le cervelle era riferita alla carrozzina che aveva davanti e che mentre faceva tutta questa sproloquio, soliloquio per l'appunto, dondolava nervosamente. E passiamo a qualcosa di più poetico. Dai, passiamo a qualcosa di più poetico e cambiamo lettera. E passiamo alla C, e ci piace leggere una poesia di Patrizia Cavalli. Io quando l'ho scoperta mi sono innamorata delle sue poesie, ho comprato tutte le sue raccolte, le ho lette svariate volte, ho pescato in questo momento veramente a caso, perché tanto sono tutte belle. La marea mattutina degli umori, la notte li prepara. Il riposo questo mi regala, questa accozzaglia gonfia che mi preme gli occhi e mi circonda il cuore, questo vischioso liquame che fa il verso agli affetti, sangue di bile e di catrame che ingrassa i miei pensieri servitori e questi ricamano solerti i corpi immensi della guarigione, danno nome e cognome alle figure inerti che per viltà sono chiamate amore. I think shy is boring, I think depressed is too. I think pretty is nice, but I'd rather see something new. You know, all those plastic people got their plastic surgery, but we got a big, big, beautiful, you know, I got it for free. Say, who you gonna be if you can't be yourself? You know, you can't get it from TV, you can't force it on anybody else. You know they come to clear cut, they come to strip mine. They come for some of my big butt, my big brain, I just little time. They wanna take me home to dinner, they think I'm a bitch if I don't go. Seems like the people who actually like me don't allow me to say no. Your idea of a conversation is the third degree. You know I don't really know you, and I don't really wanna talk about me. To pretend that I don't pick my nose, that's just the way it is, my friend, that's just the way it goes. I said, this is who I am, what I do and what I say. You like it, let it be, and if you don't, please do the same. I fight with love and I lie with rage. You got a little light enough to see the humor and long enough to see some change. See some change. See some change. Che qui andiamo un po' troppo avanti. Comunque sì, siamo passati alla D, mi pare, perché Di Franco Eni. Sì, ma noi volevamo... che cantava questo pezzo che si chiama Pick Your Nose. Però possiamo anche decidere di fare un po' su e giù sull'alfabeto, sì, perché sì, fondamentalmente... Infatti io tornerei indietro se non altro per citare queste, certo, che c'eravamo... Citiamo, perché nell'ispirazione avevamo pensato... Ci sono tantissime, lo vedrete, fotografe, di cui chiaramente non possiamo che dirle, perché farvele vedere in radio è quasi impossibile, anzi è assolutamente impossibile, ma alla C avevamo messo questa fotografa, Claude Cahun, che le lesbiche ricordano e amano tanto, perché una delle figure che ha fatto all'inizio del Novecento queste fotografie molto autoscatti con questo trasformismo tra i generi, e quindi ci piace almeno ricordarla. Farvela vedere non possiamo, però se la cercate su internet potete vedere qualche sua foto, se non l'avete mai vista o non sapete chi è. Poi c'erano anche altre cose alla B. Alla B sì, c'era Louis Brooks, che per me è un'icona proprio sexy. Che Louis non fa Brooks mai era un'attrice del cinema muto, è colei che ha consacrato, diciamo, il ruolo, ha sdoganato, non so come dire, il ruolo della femme fatale nel cinema, quando il cinema ancora non c'era il sonoro. È citatissima da moltissime attrici per il suo taglio di capelli alla Valentina, appunto, perché Valentina di Crevax ha il taglio di Louis Brooks. Cioè, prima viene Louis Brooks, naturalmente, e poi viene Valentina. Poi alla B c'era Bebe Donge, che è un personaggio di un libro di Simenon, che è una donna che avvelena il marito, va in carcere. Tutto il libro è il racconto del marito, sono delle lettere, pensieri, cose che lui dice a proposito di questa relazione con questa donna, e alla fine del libro arriva a darle ragione, cioè Bebe Donge ha fatto bene ad avvelenarlo, lui non muore e quindi può scrivere di lei. Poi c'era Christa Wolf, che anche purtroppo recentemente è tornata agli onori della cronaca, perché è morta, mi pare. Il primo dicembre da pochissimo. Dell'anno scorso, da pochissimo. Autrice di Cassandra. Di tantissimi, importantissimi, bellissimi libri, tedesca. Poi avevamo la D, sempre Angela Davis, siamo arrivate alla D. Sì. Lei è stata la portavoce, diciamo, all'interno del movimento delle Black Panthers, è stata colei che ha portato avanti le istanze delle donne nere, che è stata molto criticata e, insomma, una personaggetta niente male, molto importante anche lei. Poi c'è una sconosciuta che io ho... Ma ci vuole pure la sconosciuta, così creiamo curiosità nelle nostre ascoltatrici. Gertrude, che non riesco a trovare, adesso la trovo, perché l'ho trovata, ve lo dico, proprio sull'Enciclopedia delle Donne. E, ecco lei, scusate un attimo. Andiamo un po' avanti. Allora, vabbè, Edel Gertrude, ve lo dico, non la trovo. Mi rimarrà la curiosità. Volevo dirvi qualche data, qualche cosa, citare qualche evento importante. Non ci sono riuscita. È la prima donna che ha, diciamo, navigato, che ha nuotato sulla Manica, che ha attraversato la Manica a nuoto. È una branda del 1908, nata, mi pare. E una branda di donna gigante, una gigantessa veramente massiccia, c'è la sua foto su Wikipedia, Portale delle Donne. E, mi pareva che eravamo arrivate di nuovo alla E, perché è di Brickell, l'abbiamo ascoltata in sottofondo, sì. Forse, in però sottofondo. Diciamo, facciamo finta che l'abbiamo ascoltata, no, è di Brickell. La possiamo anche rimettere. Potevamo anche passare direttamente alla F, anche perché era partita Gabriella Ferri, era partita sotto. Ah, rieccola Gabriella, immancabile per noi qui a Roma. Poi tra l'altro io l'ho scoperta venendo a vivere qui a Roma, me l'ha fatta scoprire una mia amica romana e me ne sono innamorata pure io. E invece io volevo leggere una cosa brevissimissima di Angela Davis: le prigioni non fanno sparire i problemi, fanno sparire gli esseri umani. È la pratica di far sparire sempre più persone dalle comunità dei poveri, degli immigrati e degli emarginati per motivi razziali si è letteralmente trasformata in un lucroso giro d'affari. Questa era Angela Davis, che ricordiamo ha scritto anche appunto un libro intero su contro la prigione, e edito in Italia, quindi si può trovare, si può leggere anche appunto in italiano. Ok, ci tocca saltare di palo in frasca, vabbè, praticamente chi pranza sta facendo, mangia prima il gelato e poi la pasta al sugo, praticamente tipo una cosa del genere. E quindi da Angela Davis, così in scioltezza, andiamo al mare. Con la traccia number, che è quella di Gabriella, 5, sì. Ma Gabriella Ferri sta benissimo a ora di pranzo. Nel 47 vendevo sigarette e facevo lo sciusciar. E mia sorella Pina era una signorina, andava coi bazar. E invece mo c'ho 7 par di scarpe e vado scarso. C'avevo un giocherello e l'ho perso. Ma mi è da piagne puro quando marzo, non mi diverto manco quando scherzo. E in questa grande confusione ci sei tu, me piaci tanto ma non me piaci più. ahimò. Lei se n'è andata, si è presa la roba sua e io la mia, come se non mi avesse amato mai. Ma comunque tutti al mare, tutti al mare, a mostrare le chiappe chiare con i pesci in mezzo all'onne. Noi s'andiamo a divertì, tutti al mare, tutti al mare, a mostrare le chiappe chiare. Addio, va a trovare Marrò. Tutto dovrebbe essere comico, dice lo sguardo di Roberta, ma non lo è. Con rispetto accompagna Annunciazione alla porta, come se la nostra cella fosse diventata una grande villa padronale. Al ritorno Roberta sospira riprendendo a mangiare. Povera Annunciazione, fa di tutto per autoconvincersi che è felice di uscire, ma non è vero. Lei sta bene qua, presto tornerà. Ha la sindrome carceraria, l'affezione al carcere, è molto diffusa. Ci si affeziona a questo modo di vita. Fuori conduce una vita molto misera, a quello che mi ha detto. No, non sono solo tipi come lei che vengono presi da affezione al carcere. Però sei brava a capire come parla Annunciazione, mi hai meravigliato. Beh, purtroppo non capisco il gergo vero e proprio. Te lo insegnerò, anche se ormai è quasi inutile. Sta sparendo la massificazione anche qua. Ma questa storia dell'affezione carceraria, perché non me ne parli di più? Anche io ne sono affetta. A me piace la vita qui. E non so, e so anche il perché, credo. O almeno sono riuscita ad analizzare alcuni dei motivi. Non ne parlo mai perché molti non capiscono. Barbara, per esempio, non lo capiva. Ma a te posso parlare. Tu hai già alcuni sintomi molto evidenti. Stai attenta, eh? Ma che dico? Cado in moralismi. Ognuno è padrone di amare anche quello che gli altri ritengono male. L'importante è non rompere i coglioni. Vedi, qui la giornata è così piena di avvenimenti che alla fine diviene come una droga. Si torna a vivere in una piccola collettività dove le tue azioni sono seguite, approvate, se sei nel giusto, insomma riconosciute. Tutte capiscono perfettamente chi sei e tu lo senti. In poche parole, non sei sola come fuori. È per questo che Annunciazione tornerà qui dove tutti sanno chi è. Anche se occupa il posto più in basso di questa collettività qui. Qui ha sempre un ruolo accettato da tutti. Anch'io adesso fremo tanto d'uscire perché è un anno che sono dentro. Ma dopo 2 o 3 mesi di libertà nell'anonimato, libertà che ha solo il vantaggio di essere lasciati a morire da soli, so che mi riprenderà il desiderio di qui. Non c'è vita senza collettività, è cosa risaputa. Qui ne hai la controprova. Non c'è vita senza lo specchio degli altri. Oh, ci hanno chiuse, ma quando è stato? Non me ne sono accorta. Mentre parlavi. Meglio così. Se superi il momento del clac, dopo si sta bene. Piove anche. Come Ornella ci aveva annunciato nella mattinata, valanghe d'acqua battono alla vetrata come onde d'oceano in piena tempesta e la piccola cella si tramuta in uno scomparto di sottomarino. Hai letto Gordon Pym, Roberta? Certo, letto e riletto. Poi è la mia passione. In qualche posto devo avere il volume dei racconti. Se ti va possiamo leggere insieme. Lo si faceva con Barbara. A me piace leggere ad alta voce. E a me piace ascoltare. Benone. Leggeremo, se troviamo il tempo. Sembra incredibile, ma qui ci sono tante cose da fare che... Adesso ti devo lasciare, Goliarda, devo assolutamente scrivere 2 lettere. Imitando Roberta, seduta sul letto, le gambe ripiegate a mo' di scrittoio, una cartella sopra, la testa china, i lunghi capelli biondi danzanti nella luce, anch'io prendo carta e penna. è necessario. Mamma oggi la devo lasciare stare perché c'è il complesso B sulla TV, manco sente il telefono. Fammi chiamare mia sorella. Pronto casa Piselli? Scostumata! A forza l'abitudine ha chiamato il 110. Pronto Cestilia? Sei te? Siamo sicuri? Che i pupi tuoi stanno per strada a giocare? Non ce li mandi perché? C'hai paura del traffico, ma non c'è senso vietato? Te l'hanno levato stamattina? Mannaggia, ti è scaduto tutto il valore del palazzo. Lo rimettono domattina? Come lo sai? Fanno così due volte a settimana? Allora ti richiamo domani, va. Non mi resta che zia Bina, che quella è pure la madrina della pupa. Pronto, zia B? Senti, siccome la pupa deve da Piaria, pensavo a terrazzo sopra casa tua. Già ci stanno tre ragazzini? E ben c'è posta pure la nostra, scusa. Perché? Hanno messo un'altra antenna di TV? Quante so con questa? 92, impossibile allora. Voglio proprio protestare un quotidiano, vedete cosa mi dicono. Pronto, redazione? Senta, scusi, un cittadino che volesse mandare una pupa Piaria, che fa? Ha butta la finestra? Stanno a corto di cronaca di Roma, questi. Fammi chiamare mamma, speriamo che sente. Pronto, mamma? Mamma? A pupa? Pupa? Mannaggia il complesso bit. Deve da via aria. Non fa niente se non senti il particolare. Mannami il ventilatore. Vabbè, siamo passate così proprio con molta scioltezza, proprio con nonchalance, direi, da Goliarda Sapienza. Erano le ultime due pagine dell'Università di Re Bibbia, e quelle che vi ho letto, a Franca Valeri, la sora Cecioni, la pupa deve aria, quindi la soluzione per far prendere un po' d'aria a pupa era comprete il ventilatore. Continuiamo con questo patchwork. È diventato un patchwork in sovrapposizione. A un certo punto ce l'hanno un senso. No, qui no, è un patch, è un collage. Vabbè, sì. Le ispirazioni sono così, no? Eh sì, certo. Si sommano, si sovrappongono, sono stati d'animo diversi. Ah, perché poi abbiamo fatto da G alla F, siamo tornati indietro. Vabbè, adesso io rivado avanti, ritorno sulla G. E volevo citare le Guerrilla Girls, a cui io sono molto molto affezionata, mi stanno proprio tanto simpatiche, e leggo due cose proprio dal loro manifesto. Le Guerrilla Girls sono femministe vendicatrici mascherate, come nella tradizione dei personaggi anonimi idealisti come Robin Hood, Wonder Woman, tra l'altro che Wonder Woman è una delle nostre facenti parte della scaletta, ve lo anticipo, e Batman. Usiamo fatti, l'umorismo e immagini considerate oltraggiose per esporre il sessismo, il razzismo e la corruzione in politica, cultura, arte, cinema e pop. Vogliamo minare l'idea di una narrazione tradizionale nella cultura visiva, rivelando il sottobosco, il sottotesto, il dimenticato, il trascurato, il sobrio e decisamente ingiusto. Il loro lavoro è stato trasmesso in tutto il mondo dai loro sostenitori e le loro sostenitrici, e molti le utilizzano come modello per fare il loro proprio genere di attivismo folle. Tra un minuto vi mandiamo un audio. Prima volevo dirvi una cosa, c'è un appello delle guerriglie, perché loro sono state molto attive, sono circa 25 anni che lavorano, e sono state su tutti i giornali, reti televisive, che hanno fatto libri in cui raccontano quello che fanno, mi pare Guerrilla Girls Guide sugli stereotipi femminili, ci sono tantissimi, c'è tantissimo materiale, il loro sito www.guerrillagirls.com. Questo è l'ultimo appello che hanno fatto, è in scadenza, quindi se possiamo aiutarle in qualche modo, cerchiamo di farlo. L'appello è preceduto da un'immagine dove c'è sullo sfondo un museo, quello che potrebbe essere la facciata di un museo, con tutti i nomi dei artisti maschi, ovviamente Botticelli, Michelangelo, non so se è non credo sia un un museo italiano. Penso che sia uno di queste cose kitsch che fanno gli americani, che riproducono facciate italiane a modo loro. E dice: ci ha sempre infastidito il fatto che molti musei hanno nomi di artisti famosi incisi sulle loro facce e nessuna donna. Così siamo arrivati ad una soluzione. Questo è il manifesto in anteprima di un'esposizione di opere recente al Columbia College di Chicago, che avverrà nel marzo 2012, quindi in questi giorni sta iniziando. E in questo poster ci sono loro che arrivano tipo angeli vendicatori con le ali, con le facce da gorilla, naturalmente, guerriglia girls, con le loro facce, tu so tutto, con le loro facce da gorilla arrivano dall'alto brandendo degli stendardi con i nomi di Frida Kahlo, eccetera, di tutte le artiste famose e non donne, ovviamente. E quindi loro chiedono: se siete a conoscenza di un curatore o un direttore disponibile a farci eseguire questa operazione di cambiamento di sesso sul proprio museo, vi preghiamo di farcelo sapere. Io dubito che ci siano curatori, ma anche curatrici italiane con questo coraggio, ma insomma noi lo diffondiamo. www.guerrillagirls.com. Over the years, close to 100 women have worked in our group. We want to express our deep appreciation and thanks to those women. We also want to express our deepest thanks to the Museum of Modern Art for making us all so angry 23 years ago that we started the Guerrilla Girls. In 1984, the Museum of Modern Art opened an exhibition called An International Survey of Painting and Sculpture. The only problem was it contained only 13 women artists out of 169, and there were even fewer artists of color. The curator made a public statement that any artist who wasn't in the show should rethink his career. There was a demonstration in front of the museum, but it had no effect at all. So we got together a bunch of great women artists, we named ourselves the Guerrilla Girls, and we started sneaking around New York in the middle of the night putting up posters. We used facts, humor, and outrageous visuals to expose sexism, racism, and corruption in the art world, and then also in the world of politics, film, and pop culture. We take the names of dead women artists as pseudonyms, and this anonymity keeps the focus on the issues. One of our goals is to sfumiamo un pochino per fare una così velocissima, non vi faccio proprio una traduzione perché non sono in grado in questo momento. Comunque questa era il loro intervento al Feminist Future Symposium del MoMA, dove loro erano state invitate a un tavolo di discussione su attivismo, razza, geopolitica, eccetera eccetera, e loro sono arrivate con le loro facce da gorilla e hanno cominciato a ringraziare il museo per averle fatte così tanto arrabbiare 23 anni prima da aver cominciato le Guerrilla Girls. E poi cominciano a sciorinare tutta una serie di statistiche e numeri che riguardano appunto le donne artiste nelle collezioni dei musei. È quasi ora di chiudere, sì. Siamo solamente alla G, siamo a metà, quindi vabbè, possiamo dare un appuntamento per la prossima però settimana. Però noi ricordiamo che al di là di questa maratona, il martedì autogestiva femminista e lesbica va in onda, come dice testè il nome, ogni martedì dalle 17 alle 23, per cui questo alfabeto a patchwork non finito, ancora a metà, non avete idea di quante so. Ci manca tutta la M, che c'era un mondo intero, la M mondo. Esatto, da Dinamo Dotti alla Mendieta, May Alcott, avevamo infinite cose, la Winterson, la Zimbosca, cioè, Kate Winslet e i suoi capelli rossi. Cioè, potremmo fare, se no finisce a elencone, quindi però non ci piace neanche fare questa cosa. Qualcuno ci citava via SMS Ada Lovelace, che è stata a quanto pare la prima donna a ragionare l'algoritmo, nonché è considerata la prima programmatrice appunto dell'umanità. Dell'umanità intera, proprio di tutta l'intera umanità. E quindi che dire, che possiamo fare? Il salutare tempo forse è con un brano. Salutiamoci con un brano che ce l'abbiamo almeno di una. Sì, ci abbiamo Ricky Lee Jones. Torneremo, non scapperemo così con questo alfabeto. Vi verrà voglia, nonché se volete farci varie ed eventuali segnalazioni sulle vostre lettere, donne, femministe, lesbiche, preferite, attrici, non attrici e quant'altro, mfla@andarossa.info. Potremmo lanciare un'idea di una enciclopedia del MFLA. Un'enciclopedia del MFLA, tutte le donne che ci hanno ispirato per varie sfere di motivi. Addurre motivazioni varie. Possibili, come diceva una canzone. Ricky Lee Jones, state all'ascolto. Ciao. There was a doe leaning on the back door. A couple deals I had their